Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Potrai conoscere l'uomo con le sue congegnate e grandi alie, facendo forza contro alla resistente aria, vincendo, poterla soggiogare e levarsi sopra di lei. Piglierà il primo volo il grande uccello sopra del dosso del suo magno cecero, empiendo l'universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture e gloria eterna al loco dove nacque. Chi ha pronunciato queste parole non ha bisogno di presentazioni e la sua fama pressoché eterna non è certo legata all'impresa del volo. Messer Leonardo da Vinci, grande genio, forse un po' fifone, a lanciarsi dal Monte Ceceri presso Firenze con il prototipo della sua macchina volante, ci ha mandato infatti l'amico e collaboratore Tommaso Masini, che come noto non ha dall'impresa conseguito la grande fama pronosticata dal maestro. Semmai una gamba rotta e certo un grande spavento. Siete sicuro? Ma Tommy, veloce, sto filmando, vai. Dicono che è l'uomo più intelligente del mondo. Pensavo l'alzo davvero, questo lo mettiamo su internet. Il sogno del volo dell'uomo si perde nella notte dei tempi e si confonde con il mito e il folle tentativo di Icaro di volare con ali di cera troppo vicino al sole. Le antiche cronache riferiscono dei molti tentativi falliti da parte di autentici temerari e persino Ruggero Bacone, il monaco scienziato e filosofo inglese dell'undicesimo secolo, pensa a un certo punto della sua vita di realizzare una vera e propria macchina con le ali. Oggi a Destini Incrociati ci occupiamo di come l'essere umano, fin dalla sua comparsa in questo mondo, abbia guardato al cielo come un luogo inaccessibile ma ambito, per liberarsi dal giogo della gravità e dalle asperità degli spostamenti via terra, e di quegli uomini che alla fine ci sono riusciti attraverso volontà di ferro, multiforme ingegno e capacità imprenditoriali, accompagnati da quella dose di fortuna che da sempre, si dice, assista agli audaci. You deserve it, Will. Good luck. Be ready with that camera! Too fast, Will, too fast! Dopo Leonardo, sono molti a rilanciare la sfida dell'aria. Nel 1670, il gesuita bresciano Francesco Lana descrive un originale progetto di nave aerea che avrebbe dovuto sollevarsi da terra e mantenersi in aria grazie alla spinta esercitata verso l'alto da quattro grandi sfere di metallo leggerissimo private dell'aria interna. Un progetto che, benché irrealizzabile, pone le prime basi scientifiche per il volo con un apparecchio più leggero dell'aria. Dopo più di un secolo, nel giugno del 1783, un grande globo riempito d'aria calda, senza passeggeri a bordo, si solleva in cielo. Progettato e costruito dai fratelli Montgolfier, il velivolo prende da loro il nome, ma la Montgolfiera non è ancora la risposta definitiva agli spostamenti aerei di massa. Alla fine del XIX secolo sono collaudati con successo dirigibili a ossatura rigida. Il primo in alluminio è mosso da due motori Daimler e costruito nel 1900 dal generale tedesco Ferdinand von Zeppelin, mentre sempre in Germania l'ingegnere Otto Lilienthal, il più grande fra tutti i pionieri del volo, si occupa intensamente di studi sull'aerodinamica. Ma è nei primi anni del Novecento, nei pressi di un'immensa spiaggia nel North Carolina, che l'epopea del volo moderno ha veramente inizio. È lì che per 12 secondi qualcuno è riuscito a far volare un aliante grazie all'ausilio di due eliche e di un motore a benzina. È il primo, pur breve, volo umano con un mezzo più pesante dell'aria stessa. Per capirne di più, è necessario trasferirci al 17 dicembre 1903, spiaggia di Kitty Hawk, Carolina del Nord, assistere da vicino a questo evento eccezionale e fare la conoscenza del primo protagonista di oggi, Mr. Wilbur Wright. Wilbur Wright. Da qualche anno sono ossessionato dall'idea che l'uomo possa essere in grado di volare. Questo mio malessere è cresciuto e sono convinto che mi costerà parecchi soldi, se non la mia stessa vita. È una mattina fredda a Kitty Hawk. Poche barche di pescatori sfidano le gelide acque dell'Oceano Atlantico, mentre sparuti cormorani zampettano in spiaggia alla ricerca di qualcosa da beccare. Sembra non abbiano molta voglia di volare. Meglio così. Oggi il cielo non appartiene a loro, ma alla storia e a due uomini, due fratelli, che tra pochi minuti porteranno il nuovo secolo di forza nel futuro, aprendo di fatto l'era dell'aeronautica. Wilbur e Orville Wright, ai tanti trentenni originari dell'Ohio, stanno infatti mettendo a punto gli ultimi dettagli per provare a far volare il Flyer One, prototipo di un aliante a motore frutto di numerosi precedenti esperimenti, tentativi e altrettanti fallimenti. Eppure Wilbur, il fratello più anziano, sente che quel 17 dicembre del 1903 è il giorno giusto. Il vento è favorevole, il cielo terso e la visibilità ottimale. Quella che ha definito l'ossessionante idea che l'uomo possa essere in grado di volare sta per concretizzarsi. Il motore è caldo, vibrante, fragoroso. Orville è ai comandi e fatica a sentire le parole di incoraggiamento del fratello che gli si è avvicinato per stringergli la mano. Il primo conto alla rovescia della storia del volo umano è giunto alla fine. Torneremo presto sulla spiaggia di Kitty Hawk per assistere al primo decollo umano. Ma quello che ci incuriosisce ora è capire come sia stato possibile che due dei figli del pastore Milton Wright, anonimi proprietari di una fabbrica di biciclette di Dayton, nell'Ohio, siano arrivati a quella fatidica mattina d'inverno. I ragazzi del pastore, così chiamati dai vicini, Will e Orv dagli amici, crescono nei pressi della campagna di Dayton a pane e religione, ma anche nel culto del lavoro e della passione per la meccanica trasmessagli dalla madre Susan. Fin da ragazzi, i due fratelli si mettono in affari realizzando un piccolo negozio di biciclette costruite da loro stessi, Wright Flyers. Così battezzano i loro velocipedi, per i quali pensano manchino solo le ali per poter persino volare. Il volo, infatti, è la loro vera passione. Specialmente per Wilbur, che passa intere notti a disegnare prototipi di macchine volanti, legge ogni tipo di pubblicazione in merito, apprende i principi dell'aerodinamica, è attratto soprattutto dalla teoria del volo degli uccelli e dai diagrammi polari che ne descrivono la dinamica delle ali, base della ricerca di Otto Lilienthal, il tedesco pioniere dell'aviazione, soprannominato The Glider King, il re degli alianti. Quando nel 1896 Lilienthal muore precipitando al suolo nel corso di uno dei suoi innumerevoli esperimenti di volo, Wilbur Wright decide che è giunto il momento di fare sul serio e raccoglierne l'eredità. Confesso che nel 1901 dissi a mio fratello Orville che l'essere umano non sarebbe riuscito a volare per almeno altri 50 anni. Il pessimismo di Wright, tuttavia, non corrisponde alla tenacia con la quale, assieme al fratello, insiste nel trovare il modo di far volare l'apparecchio da loro stessi disegnato e costruito. Un apparecchio lungo 12 metri e pesante 340 kg, dotato di un motore ad eliche. Qualcosa di decisamente più pesante dell'aria, quasi una follia solo il pensare che un oggetto di quella stazza possa alzarsi dal suolo, e altrettanto complessa l'idea di riuscire a pilotarlo correttamente. Gli Wright, dopo l'incidente di Lilienthal, hanno infatti compreso che la manovrabilità del mezzo è uno degli elementi chiave per il successo. È il volo di alcuni uccelli a incuriosire Wilbur, che nota il modo in cui essi deformano l'estremità delle ali per mantenere l'assetto laterale, e si rende conto che lo stesso principio, che sarebbe poi diventato noto come svergolamento alare, può essere applicato anche a una struttura alare artificiale, purché dotata di sufficiente flessibilità. L'hanno fatto! Che io sia dannato se non hanno volato. Con un'acrobatica virata temporale, Destini Incrociati torna a sorvolare la spiaggia di Kitty Hawks il fatidico mattino del 17 dicembre 1903, in tempo per sentire esclamare queste parole a Johnny Moore, un bar watcher del posto che saluta in questo modo il decollo del Flyer One. L'istante, inoltre, è immortalato da un fotografo, John Daniels, per una delle fotografie più riprodotte del Novecento. Orville è ai comandi. L'apparecchio si impenna, prende aria, decolla. Wilbur è a pochi passi, come sempre in giacca e cravatta. Sembra un doganiere in attesa dello sbarco dei passeggeri, invece è un gigante dei suoi tempi. Segue con lo sguardo trepidante la sua creazione salire in cielo, non troppo in alto, 3 metri, non troppo a lungo, 12 secondi, non troppo lontano, 36 metri. Ma come ha urlato Johnny Moore, dannazione se ha volato. Abbiamo avuto grandi difficoltà nel raggiungere velocità sufficienti per effettuare veri decolli. Mentre la nostra nuova macchina si solleva a una velocità di circa 23 miglia, è solo quando la velocità raggiunge le 27 o 28 miglia che la resistenza diventa considerevolmente minore della spinta. Abbiamo trovato praticamente impossibile raggiungere velocità maggiori di 24 miglia con i binari che abbiamo a disposizione e poiché i venti sono spesso molto leggeri e pieni di intervalli in cui la loro velocità scende quasi a zero, spesso troviamo che la velocità relativa è sotto il limite e siamo incapaci di procedere. Le spiegazioni tecniche descritte da Wilbur Wright in una lettera dell'anno successivo non tolgono nulla all'incantesimo e all'emozione di quel giorno, che vede il Flyer volare ancora per altre 3 volte, nell'ultima delle quali, con Wilbur ai comandi, il primo vero e proprio aeroplano della storia resta in volo per 59 secondi, percorrendo 266 metri. Nulla che ancora impensierisca gli uccelli infreddoliti della spiaggia, ma il loro cielo, da quel preciso momento e per sempre, dovrà essere spartito con gli esseri umani. L'impresa dei fratelli Wright non tarda a fare il giro del mondo, anche se inizialmente accolta da velato scetticismo. Da buoni patrioti, i due fratelli si rivolgono alle forze armate, che non vedono inizialmente un possibile utilizzo militare di un aeroplano ancora così poco maneggevole e dalla relativa autonomia. I due faticano anche a trovare finanziamenti per proseguire nello sviluppo dei prototipi. Nulla che possa scoraggiarli. E così si ritirano nel loro hangar casalingo a Dayton per continuare il perfezionamento e limare i margini di errore. Gli anni successivi portano a un lento ma graduale e sensibile miglioramento di ogni aspetto tecnico e aerodinamico, e nuovi modelli si susseguono fino al 1907. Wilbur e Orville, ormai famosi, sono invitati in tutto il mondo per tenere conferenze e dimostrazioni. Ed è durante una di queste, a Liegi, che le traiettorie del destino permetteranno l'incrocio tra l'invenzione dei Wright e la vita di un giovane ingegnere italiano innamorato dell'aviazione. A testa in su, la bocca semischiusa, in un'espressione di ammirato stupore, quel giovane sta infatti ammirando le evoluzioni del Flyer di Wright. L'evento non dura che pochi minuti, ma al momento dell'atterraggio quel giovane ha già deciso quale sarà il suo futuro e il resto del corso della sua vita: l'ingegneria aeronautica. Mentre si avvia a conoscere l'uomo che ha reso possibile il volo umano, sente dentro di sé l'eccitazione di chissà quello che vuole. Quando stringe la mano a Wilbur Wright, si presenta, scandendo bene nome e cognome per agevolare la comprensione dell'americano. Giovanni Battista Caproni. Giovanni Battista Caproni. Verrà il giorno in cui il cielo sarà solcato da mostruosi transaerei capaci di trasportare un centinaio o anche più di passeggeri, con a bordo cabine con letto, sala da pranzo e lettura e tutte quelle altre installazioni desiderabili per rendere piacevole una grande traversata. Questi aeroplani avranno dimensioni enormi, sicurezza e stabilità, quali e ancor più grandi dei transatlantici. Queste sono le prime riflessioni di Caproni dopo aver incontrato Wilbur Wright, l'uomo che ha acceso in lui un nuovo destino. Dopo quell'incontro a Liegi, infatti, per Giovanni Battista la vita non sarà più la stessa. Essersi intrattenuto a fare 2 chiacchiere con il maggiore dei fratelli Wright sul volo e sulle possibilità di sviluppo del settore dell'aeronautica lo ha messo su una nuova strada, una strada fatta di aria, ma non per questo poco concreta. Mentre parlano, il giovane italiano pensa alle similitudini che ci possono essere con questa figura carismatica. Anche lui ha un fratello che potrebbe coinvolgere nelle sue imprese. Anche a lui interessa temerariamente il volo. Chissà che questa sintonia non porti lontano. Gianni Caproni ha le idee chiare in testa e la figura carismatica di Wright bene è impressa nel suo animo di ingegnere e avventuriero. Wilbur, dal canto suo, è un uomo arrivato, famoso ormai in tutto il mondo e conscio dell'enorme possibilità che ha dischiuso. Mentre si continuano a costruire e a migliorare i prototipi all'American Wright Company, da lui fondata a Dayton, Wilbur gira intorno al globo per farli conoscere e, da buon commerciante qual è sempre stato, anche per venderli. Voli sperimentali e dimostrativi, spiegazioni tecniche in conferenze sempre affollate, un'attività frenetica e senza sosta, che lo riempie di soddisfazioni ma che presto mina anche la sua salute. Nel frattempo, in questi favolosi primi 10 anni del Novecento, il mondo sta imparando ad alzare gli occhi al cielo sempre più spesso per vederlo solcato da enormi uccelli meccanici. I fratelli Wright hanno dato il via, ma il conto alla rovescia verso la definitiva conquista del cielo è appena iniziato e le loro gesta, come un bonario virus, hanno intaccato le menti di ingegneri, aviatori, costruttori e sognatori di tutto il pianeta. Guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Destini incrociati. Affusolati jet supersonici, enormi jumbo in grado di trasportare 500 passeggeri, oppure aviogetti monomotore, leggeri e acrobatici come quelli usati dalle frecce tricolori che abbiamo appena ascoltato ruggire nei cieli romani. Ma anche caccia da guerra, armati fino ai denti, invisibili ai radar, a volte persino privi di pilota e spesso tristi portatori di distruzione. Ai nostri tempi ogni giorno si alzano in volo migliaia di velivoli che intrecciano le loro traiettorie di volo, frequenti e fitte come la tela di un enorme ragno sospesa nel cielo. Oggi, a Destini Incrociati, intrecciamo la rotta di vita di due uomini che hanno contribuito a che questo potesse accadere. Il primo, Wilbur Wright, assieme al fratello Orville, ha dato il via al sogno dell'uomo di muoversi liberamente nel cielo, svincolandosi dal giogo della gravità. Il secondo, Gianni Caproni, illuminato da una conferenza a Liegi dello stesso Wright, ha deciso di intraprendere la strada del volo, dando a sua volta un forte impatto per le sorti dello sviluppo dell'aviazione nel nostro paese. Ma chi è Gianni Caproni? Ho fatto anche in onore e memoria di Caproni, che 100 anni fa, giovane ingegnere di 23 anni, ha avuto il coraggio, naturalmente, di fare un aereo del genere, però ha mostrato anche di essere un bravissimo. Noi abbiamo fatto una... le specificità di questo Caproni CA1, il cui primo volo si colloca esattamente 100 anni fa, il 27 maggio del 1910, come è stato detto, a Malpensa, in un'area molto vicina a quella dell'attuale aeroporto intercontinentale. Il futuro conte di Taliedo, Giovanni Battista Caproni, nasce ad Arco, tra Trento e il Lago di Garda, in allora territorio austriaco, il 3 luglio 1886, da Giuseppe Caproni e Paolina Maini, piccoli possidenti che permettono a Gianni, così semplicemente ribattezzato da parenti e amici, un'istruzione adeguata. Dopo aver frequentato la Realschule a Rovereto, si iscrive al Politecnico di Monaco di Baviera e a soli 21 anni è laureato in ingegneria civile. Quando nel 1907 si sposta a Liegi per conseguire una specializzazione in elettrotecnica presso l'Istituto Montefiori, avviene un primo importante incontro per il corso del suo destino. È infatti nella affascinante città belga che ha dato i natali a Georges Simenon che Caproni conosce Henri Coandat, lo scienziato e ingegnere rumeno, padre dell'aerodinamica moderna, suo futuro grande amico e con il quale collaborerà per tutta la vita. Questi aeroplani di oggi altro non sono che il perfezionamento degli aerei di carta con cui giocano i bambini. Secondo me dovremmo pensare ad una macchina volante del tutto diversa, basata su principi di volo innovativi. Mi immagino un aereo futuro che si innalzerà in volo verticalmente, volerà in maniera tradizionale e atterrerà verticalmente. Questa macchina volante non dovrà avere parti mobili. È un'idea che mi è stata ispirata dall'enorme potenza dei cicloni. Le profetiche parole di Coandà fanno intuire quanta influenza possa aver avuto il padre del motore a reazione sul compagno di studi italiano, che poco alla volta si innamora di tutto ciò che riguarda il mondo della fisica del volo e della nascente industria dell'aviazione. Quando Wright giunge a Liegi per la dimostrazione che gli cambierà la vita, Gianni non si lascia sfuggire l'occasione. Ed è in quel giorno di aprile, la testa rivolta al cielo, che decide del suo destino. Volerà, ma lo farà su una macchina volante costruita da lui. Ha infatti capito subito che al di là della pratica empirica dei primi costruttori, per raggiungere risultati maggiori, si deve applicare una scienza sicura nelle sue forme e nelle sue leggi. Gianni Caproni rientra in Italia nel 1908 e da quel momento ogni suo sforzo e pensiero è rivolto esclusivamente alla realizzazione del suo primo velivolo a motore, un biplano battezzato, forse senza troppa fantasia, CA1. Ma Caproni è un ingegnere geniale, un alpigiano trentino tenace e instancabile. Le sue fantasie sono rivolte esclusivamente alla risoluzione dei problemi pratici. Assieme al fratello maggiore Federico e a Ugo Tabacchi, passa interminabili giornate nell'officina di Arco. Ma quando finalmente il prototipo del biplano è pronto, un problema si presenta immediato. Le condizioni ambientali, cioè i terreni adatti a far volare l'apparecchio nella zona di Arco, non ci sono. L'indomito gruppo decide di trasferirsi in Lombardia, nella brughiera di Gallarate, dove Caproni ha individuato una cascina abbandonata del demanio con terreni incolti, pianeggianti, con scarso abitato e attività agricole nulle. È la cascina Malpensa, il luogo dove Gianni costruirà il suo primo modesto hangar e oggi principale scalo aereo del nord Italia. 20 speed, 230 knots. 30, ma cos'è questo coso che ci precede, che va così piano? Questo, il coso che la precede è un 737, il coso che precede il coso che la precede è un Fokker 27. In testa a tutti i cosi un aeroporto che deve servire le partenze. Bene. Naturalmente non è questo lo standard di una comunicazione tra la torre di controllo a Malpensa e un pilota in volo, ma è invece affascinante ascoltare l'epica descrizione di quei primi momenti con le parole dello stesso Gianni Caproni nella memoria primi risultati di una bonifica in brughiera letta alla Regia Accademia dei Georgofili di Firenze l'11 aprile del 1937. Nella primavera del 1909 mio fratello ed io stavamo costruendo in Arco, vicino a Trento, un aeroplano. Si accarezzava la speranza che quel nostro apparecchio potesse, il primo di concezione e costruzione completamente italiane, librarsi nell'aria. Ma non si sapeva dove avremmo potuto trovare una larga distesa di terreno sgombra da alberi, adatta per provarlo. Attorno a noi non vi erano che campi alberati e per giunta rinchiusi fra alte montagne. Vi era di peggio. Su tutto sovrastava l'Austria, che noi, ancora irredenti, non amavamo. Per questo si auspicava che il volo potesse essere spiccato partendo da un lembo di patria già redento. Ci demmo subito alla ricerca di un campo di prova entro i vecchi confini del regno, finché un compagno di università milanese ebbe l'idea di suggerirmi la cascina Malpensa come il luogo meglio indicato per le nostre esperienze. Si trovava nell'alto milanese, a 9 km da Gallarate, sperduta in una brughiera. Veniva adibita alle esercitazioni annuali della cavalleria ed era di proprietà del demanio militare. Si ottenne con facilità il permesso di provarvi l'aeroplano. Trovato il luogo giusto per l'intrepido terzetto, è giunto il momento di provare a volare seriamente. Ma i primi risultati non sono quelli sperati. Fu quella la svolta decisiva della nostra vita. Giunti al ciglione che chiude la Brughiera Grande verso Gallarate, i nostri occhi spaziarono per la prima volta su di una pianura desertica, dall'aspetto contrastante in pieno con quello vario del paese da cui provenivamo, sovrappopolato di contadini, sfruttatori di ogni minuzzolo di terra. Dalla vista piana emergeva un unico fabbricato, di forma quadra, grande, semiabbandonato. Addossammo ad esso il nostro capannone di legno. Poche settimane dopo le prove ci diedero la certezza che avevamo loro richiesta e insegnarono a noi e agli altri che il modo migliore di utilizzare quella brughiera era quello di servirsene come magnifici campi naturali di aviazione. Ai primi voli e ai primi successi seguirono gli immancabili contrattempi. Il nostro soggiorno in brughiera, preventivato di qualche settimana, si protrasse a lungo. Durò tanto che io ci sto ancora. Il 27 maggio 1910, con il coraggioso ma inesperto Tabacchi ai comandi, il CA-1 si leva in volo. Non si trovano sulla spiaggia di Kitty Hawks e loro non sono i fratelli Wright. Ma per i cieli italiani è un momento importante. Dal terminal zero della Malpensa si leva il primo aeroplano tricolore. Non c'è torre di controllo, non c'è il check-in e non ci sono passeggeri. Ma solo un meccanico trentino ai comandi che un istante dopo essersi alzato in volo saluta con la mano i suoi due colleghi, amici e titolari restati a terra con il cuore in fermento e come sempre lo sguardo rivolto al cielo. E se mio figlio sapesse già parlare mi direbbe tu come stai stasera, ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma sì, parliamo un po'. Io dormire no, proprio no. Dai, camminiamo insieme per questa strada vuota. Destini incrociati. A destini incrociati stiamo volando al fianco delle sorprendenti capacità dell'ingegno e del coraggio di uomini che nei primi anni del Novecento hanno fondato le basi dell'aviazione moderna. Dopo aver eseguito il primo decollo di un mezzo più pesante dell'aria sulla spiaggia americana di Kitty Hawks per opera dei fratelli Wilbur e Orville Wright, ci siamo spostati in Lombardia, alla cascina Malpensa, per assistere al primo volo del biplano CA-1, messo a punto da Gianni Caproni, un ingegnere italiano innamorato del volo dopo un incontro con Wilbur Wright, e che dei fratelli Wright è stato geniale epigono. Torniamo a quel 27 maggio 1910, il giorno del primo decollo. Ugo Tabacchi, il meccanico messo da Gianni Caproni ai comandi del CA-1, sta completando il suo breve volo intorno ai campi incolti di Somma Lombarda, generando grande entusiasmo in Gianni e Federico Caproni che lo stanno seguendo dalla zona di decollo della cascina Malpensa. Tutto sembra andare bene, ma al momento dell'atterraggio il pur bravo e coraggioso pilota non riesce a tenere il controllo del velivolo che con un fragoroso schianto finisce la sua corsa pressoché distrutto. Tabacchi è illeso, ma osserva preoccupato i rottami del biplano. Poi, vedendo venirgli incontro i due fratelli pieni di entusiasmo, capisce che tutto è andato bene. Ciò che conta davvero, gli dice Caproni, è aver volato con il mezzo da loro concepito e costruito. La vita dell'imprenditore dell'aria italiano comincia realmente in quel giorno di fine primavera. Ecco come ce ne parla Luca Gabrielli, curatore delle collezioni del Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni. Gianni Caproni è stato uno dei protagonisti, dei pionieri indiscussi dell'industria aeronautica e dell'industria in generale italiana del Novecento. La sua è un'attività che si sviluppa per oltre mezzo secolo, dai primi anni del Novecento fino alla metà degli anni 50. E questo lo rende indubbiamente uno fra i principali protagonisti dell'avventura aeronautica del nostro paese. E Gianni Caproni parte, possiamo dire, da niente nei primi anni del Novecento come giovane ingegnere appassionato di volo, costruisce con le sue mani insieme a qualche amico i suoi primi aerei, impianta poi un'attività che già durante la prima guerra mondiale è fra le realtà di punta dell'industria aeronautica europea ed è un'attività che negli anni 20 si trasforma in un grande gruppo industriale che dopo qualche anno arriverà a dare lavoro a 45.000 operai, quindi una realtà di tutto rispetto. Ma al di là di questo, credo che la caratteristica principale di Gianni Caproni fosse la sua capacità di vedere oltre i tempi, di sognare prima di altri e di provare a realizzare il futuro del volo. E infatti la sua vita è piena di progetti che per la loro epoca erano, possiamo dire, al limite del pazzesco, ma che di lì a poco si sarebbero realizzati, sarebbero verificati come vincenti e si sarebbero rivelati come in anticipo sui tempi, con una capacità, direi, quasi profetica. Mentre nella primavera del 1910 ha inizio l'avventura dell'aeronautica italiana, per Wilbur Wright, l'uomo che ha aperto gli occhi a un giovane italiano sul suo futuro e che per primo ha fatto volare un mezzo più pesante dell'aria, inizia un periodo difficile. Già da un paio d'anni non è più riuscito a pilotare un prototipo a causa delle vertigini e dopo aver fondato con il fratello l'American Wright Company, la sua frenetica attività divulgativa in giro per il mondo è senza sosta. Ma la stanchezza inizia a farsi sentire e incide talvolta sulla sua disponibilità. Alla fine del decennio passa anche dall'Italia, dove instaura di fatto la prima scuola di volo italiana con la formazione del primo pilota italiano, l'ufficiale della Regia Marina Mario Calderara. Quando Calderara riceve il brevetto di pilota numero uno dell'allora nascente Aero Club d'Italia, Wilbur Wright ha fatto ritorno a Dayton già da un anno. È stanco, malato. Passa gli ultimi febbricitanti mesi della sua vita a distribuire deleghe e a rassicurare il fratello sull'importanza e la qualità del loro lavoro. Poi, la mattina del 30 maggio 1912, la febbre tifoide si prende un'anima finalmente libera di volare senza essere legata ad alcun vincolo di gravità. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. L'anno della morte di Wilbur Wright, a causa della febbre tifoide, è un periodo difficile anche per Gianni Caproni e la sua azienda. Nel momento di maggiore difficoltà finanziaria, a metà del 1913, alla Caproni giunge in aiuto l'unico acquirente possibile, lo Stato. A pochi mesi dagli eventi che segneranno la prima parte del Novecento, culminando nel primo conflitto mondiale, Gianni Caproni capisce, pur riluttante, che il suo ingegno e le sue capacità possono servire al suo paese in un momento difficile come quello dell'entrata in guerra. Assunto in servizio tra i funzionari civili, nasce così il progetto del trimotore CA-300, poi CA-3, utilizzabile come bombardiere. La guerra dimostra la bontà dei trimotori Caproni, che sono utilizzati dalle forze aeree italiane, ma anche di Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Caproni resta però convinto delle capacità dell'aeroplano e del suo utilizzo come trasporto civile, e al termine della guerra lo spiega con queste parole tratte da un articolo del 1919. Quante persone non hanno il vivo desiderio di volare, di provare la grande emozione di librarsi nel cielo e percorrere lo spazio infinito? Accade molto frequentemente all'industriale, al commerciante, al professionista di dover trattare urgentemente e personalmente un affare. E perché non dovrebbe egli approfittare di questo rapidissimo mezzo di trasporto? Chi non vorrà in avvenire registrare fra le sue escursioni anche un viaggio aereo? Non sarà tentato da una gita sul cielo di cobalto anziché in treno? La guerra assorbì fino ad ora tutte le nostre energie, ma ora bisogna affrettarsi, non perdere tempo. L'Italia, per la sua stessa posizione geografica, è destinata al più brillante avvenire aviatorio. Negli anni compresi tra le due guerre mondiali, Gianni Caproni si impegna a dare a quella che era nata come ditta familiare la forma di un vero e proprio gruppo industriale, che arriva a contare più di 20 consociate, con la denominazione di Gruppo Caproni, alternando alla produzione di velivoli da trasporto civile anche progetti più visionari. Sentiamo nuovamente le parole di Caproni, come sempre colme di entusiasmo. È noto ormai anche a coloro che meno se ne interessano che i biplani Caproni hanno percorso il viaggio Newport, Washington, New York e ritorno in 5 ore con ben 10 passeggeri a bordo. Eppure su un biplano, 4 passeggeri, tra cui il maggiore Gabriele D'Annunzio, compirono senza scalo un volo di oltre 1400 km, sorvolando i principali centri d'Italia. Qualcuno potrebbe pensare che l'aviazione commerciale si troverà di fronte a una grande diffidenza, ma io non voglio crederlo. Non è possibile che il mondo rinnovato voglia coprirsi nuovamente di muffa, lottando contro la civiltà che porterà meravigliose istituzioni, compresa la navigazione aerea. Sono morti per sempre i pregiudizi contro il primo piroscafo, il primo treno e anche contro le prime automobili. Poveri inventori di un tempo, martiri dell'ignoranza che li circondava. L'entusiasmo di Caproni è destinato a smorzarsi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Gianni è inizialmente contrario all'entrata in guerra, restando anche convinto che sarebbe stato un conflitto di macchine vinto da chi, sono le sue stesse parole, ne avrebbe schierato il maggior numero e della qualità migliore. Con l'armistizio dell'8 settembre 1943, i principali stabilimenti della Caproni vengono a trovarsi nella Repubblica Sociale Italiana, causando problemi di non poco conto a Caproni, che a causa di un suo atteggiamento tergiversante alla fine della guerra riceve un ordine di arresto per collaborazionismo con le forze occupanti tedesche e per avere favorito il regime fascista. Accuse dalle quali sarà assolto nel 1946 per non avere commesso il fatto. A proposito, sentiamo ancora la voce di Luca Gabrielli del Museo Aeronautico Gianni Caproni. La parabola industriale di Gianni Caproni termina con la Seconda Guerra Mondiale, o per meglio dire poco dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Dopo il 25 aprile, quindi dopo la liberazione, Caproni subisce una denuncia per atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista e per collaborazionismo col tedesco invasore, questo ci dicono i documenti. Il processo viene istruito di lì a poco, ma nel giro di pochi mesi Caproni viene completamente assolto in fase istruttoria da parte del Tribunale del Comitato di Liberazione Nazionale. Quindi possiamo dire che esce indenne da questo grave momento immediatamente successivo alla guerra. Tuttavia, durante il processo, durante i mesi delle indagini e del processo, Caproni viene tagliato fuori completamente dalla vita del gruppo industriale, viene privato dei poteri di rappresentanza, subisce il sequestro di tutti i beni e dobbiamo pensare che questo avviene in una fase di transizione dell'economia italiana, una fase estremamente delicata, in cui si passa da un'economia bellica drogata dalle commesse statali a una fase di economia di mercato pacifica. Insomma, questo avere perso il treno della ripresa porta in poco tempo il gruppo industriale al collasso, per ragioni molto varie, molto articolate, fra cui si possono ricordare l'assenza di commesse pubbliche, la scarsità di mezzi a disposizione dell'azienda, l'esposizione bancaria sempre crescente, il congelamento dei crediti per tutte le forniture effettuate durante la guerra, poi una inflazione devastante, la crescita dei prezzi all'ingrosso delle materie prime e un fatturato sempre più insufficiente e deludente. Insomma, tutti questi fattori fanno sì che nel giro di pochi anni, fra il 1946 e il 48, per il gruppo Caproni venga a delinearsi una sorta di lento tramonto che dal 1951 in poi passa a una vera e propria fase di cessione e di liquidazione. Ecco, nel giro di pochi anni questo impero industriale esteso in tutto il mondo viene via via smembrato e si riduce a pochi stabilimenti sul territorio nazionale. Il dopoguerra si apre per la Caproni con una profonda crisi economica. A partire dall'anno successivo e fino al 1951, Caproni gira il mondo alla ricerca di finanziatori e commesse, mentre la ditta investe le sue ultime risorse per il progetto del piccolo bimotore da trasporto Executive CA-193, acquistato successivamente dall'Aeronautica Militare Italiana. Nei pochi anni restanti a Gianni Caproni, che muore nel 1957, all'età di 71 anni, egli non riesce a far tornare l'azienda alle altezze raggiunte prima della guerra. Ma i traguardi del primo grande industriale dell'aeronautica italiana sono in qualche modo paragonabili con quelli dei geniali fratelli Wright, da cui tutto ha avuto inizio. Perché volare si può, è bastato crederci. Life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on.